America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. In città, dopo l'attentato di sabato, regna, devo dire, il caos, anche perché quasi 200 leader mondiali sono arrivati o stanno arrivando in città per l'incontro oggi sull'immigrazione e poi mercoledì per l'Assemblea Generale dell'ONU. Questi leader hanno trovato aeroporto, città, alberghi, strade in stato di assedio. Hanno anche recepito il dilemma con cui si confronta l'America davanti agli attacchi di sabato. Tre attacchi in un giorno. Ecco, la domanda è lecita: si è trattato di terrorismo coordinato o di episodi casuali, casualmente legati? Ci si domanda oggi se c'è un filo che lega l'esplosione a Chelsea, a New York, che ha fatto 29 feriti, con l'attacco a coltellate in Minnesota e la bomba tubo esplosa in New Jersey. Tutto questo sabato. Inizialmente gli inquirenti non avevano dubbi, nessun collegamento. Ora però sembra che vi siano meno certezze ed è su quello che ci si interroga oggi, a quasi due giorni da questi attentati. Ecco, devo dire, per fortuna non ci sono stati morti né a New York, né in Minnesota, né in New Jersey. Gli 8 accoltellati da un forsennato che gridava Allah Akbar, Dio è grande, un forsennato che poi è stato ucciso, l'esplosione di Seaside in New Jersey, dove si doveva tenere una manifestazione di veterani, ecco, sono eventi diversi, drammatici, con posizioni e sfumature diverse. Sentiamo il sindaco di New York, Bill de Blasio. There is no evidence at this point of a terror connection to this incident. Ecco, de Blasio parla di New York, dice che è un attacco intenzionale, un attacco premeditato, ma non è terrorismo, dice. Non ci sono dei significati politici internazionali dietro questo attacco. Poi nella notte abbiamo avuto alcuni dettagli che sembrano fare maggiore chiarezza, per ora non ci sono elementi conclusivi, ma ci sono passi in avanti sicuramente interessanti. Vediamo qualche dettaglio. A mangled dumpster was one of the first images to emerge, leading many to wonder what caused the explosion. Ecco, parliamo del New Jersey perché se ne è parlato molto meno. C'era una manifestazione qualche ora prima e esplosa una bomba. Era una bomba tubo. Non c'erano delle pentole a pressione riempite di miscele di esplosivo come a New York. Qual è il collegamento? Beh, gli artificieri federali in Virginia, dopo aver ricevuto i materiali recuperati dalla polizia, hanno identificato tecniche complesse, inusuali per gli Stati Uniti e con un meccanismo a tempo regolato da telefonini, con delle lucine di Natale inserite dentro le bombe o dentro le pentole a pressione per creare un maggior impatto durante l'esplosione. E la cosa che emerge è che sia a Seaside che a New York, beh, c'era più o meno una tecnica simile. È solo un caso? Tecniche esplosive simili in città diverse che fanno danno a poche ore di distanza le une dalle altre per puro caso? Possibile, perché tutto è possibile, ma gli inquirenti cominciano ad avere qualche dubbio. Tutto questo per dire che cosa? Che la situazione è complicata per la polizia, per i leader che stanno arrivando, per i residenti della città. È una situazione che complica anche la campagna elettorale. Sentiamo Donald Trump. Just before I got off the plane, a bomb went off in New York and nobody knows exactly what's going on. Ecco, Trump ha parlato per primo sabato sera, di fatto ha dato lui l'annuncio dell'attacco a New York, ha parlato di una bomba e ha detto che questo caos deve finire, basta, ha detto con il suo solito tono molto aggressivo e determinato. Ecco, Hillary in contrasto è stata meno efficace, ha detto, così con un atteggiamento da statista, non vogliamo trarre delle conclusioni prima di avere certezze, il lavoro degli inquirenti va avanti, affidiamoci a loro. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, come dire, l'appello di Andrew Cuomo, del sindaco, è stato molto chiaro. Lo dico anch'io a coloro che mi hanno mandato molti messaggi, messaggi affettuosi, cioè stai a casa, statene chiuso a casa. No, beh, devo dire, a New York non si sta chiusi in casa. Il sindaco l'ha detto, il governatore lo ha ripetuto, questa non è una città che si spaventa. E dunque vi propongo The Doors. Who scared you? Chi vi ha spaventato? Who scared you? Why were you born? into time zones with all of your charms, my love. Why were you born just to play with me? To freak out or to be beautiful, my dear? Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.